Ho imparato ad amare, a far bruciare il mio cuore. Devo ancora scoprire tutto della vita, che non basterà il tempo, che il tempo non basterà mai. In mezzo al mare, torri di roccia equidistanti si fanno guardare. Ed io penso, ripenso a queste isole ribelli, che spuntano impavide, da specchi d'acqua non corrotti, sfidando i venti e le tempeste, scongiurando fastidi, che spero di non dover scoprire mai. Di notte mi piace star sveglio accanto a lei e restare a guardarla finché non albeggia. La osservo mentre dorme, ammiro le sue forme illuminate dalla luce fragile di un lampione stradale che dà proprio sulla nostra finestra e ci fa da luna. Ascolto il suo respiro, basso e deciso, trattenendo il mio per non far rumore. E penso, considero, sogno di noi. Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, e con le parole di uno scrittore che ho scoperto recentemente, sebbene molti di voi probabilmente abbiano già potuto apprezzarne la scrittura. Mi riferisco a Wilson Saba e il suo Sole e Baleno, che nel 2006, con questo suo primo romanzo, gli consentì di essere anche finalista premio Strega. Quindi immaginate un giovanissimo autore che consegna, o forse, se ricordo bene, pubblica il suo romanzo nel dicembre dell'anno prima e che 6 mesi più tardi si ritrova ad essere uno dei protagonisti dell'annata letteraria italiana e probabilmente non solo. Lucio Venturi è il protagonista di questa storia. Studia lettere classiche a Bologna. Vive in una casa e in una famiglia troppo carine, da cui scapperebbe, volentieri, se solo avesse più coraggio e sapesse soprattutto dove andare. Eppure a tenerlo ancorato a Bologna ci sono gli amici. Gli amici, sapete come spesso accade, sono diversi da noi. Questo è uno degli aspetti più interessanti di questo romanzo, in cui si trovano più vite nascoste, raffigurate in questa storia che potrebbe essere la nostra. Dico soprattutto la nostra, di quell'età che nel 2001 capiva già quello che stava accadendo, anche se i fatti dell'11 settembre, come poi vedremo, hanno probabilmente segnato le nostre vite, i nostri sogni e probabilmente parte delle nostre speranze. In questo racconto, che veramente vi fa ritornare bambini, che qualcuno ha definito un romanzo di formazione, di educazione sentimentale, ci sono due protagonisti che emergono più di tutti l'uno sull'altro: Paco da un lato e Lucio dall'altro. Lucio, che è probabilmente anche luce e che riesce ad accogliere intorno a sé tanti altri amici. E poi c'è il suo contrario, il suo opposto, Paco. Quanto pensieroso l'uno, tanto ribelle l'altro, poco incline probabilmente alle regole, è pronto a mettersi in gioco subito, mentre l'altro invece tarda a crescere, come se volesse coltivare ancora quell'età, come qualcuno ha definito, innocente, da cui probabilmente fa... Insomma, probabilmente è meglio non uscirne, meglio restare ancora in quella coltre nascosta tra libri, illusioni, speranze. Ed è questa la generazione che racconta Wilson, e lo fa, ve lo dico, proprio con una scrittura intensa, appassionata, come probabilmente solo un ventenne riesce ancora a fare, E ve lo consiglio, vi consiglio vivamente di leggerlo, perché ci sono cose che vale la pena, ci sono pensieri in libertà che vale la pena di leggere anche col tempo. E chi l'avesse già letto, beh, è stato recentemente, il volume è stato recentemente ripubblicato per l'appunto da Bompiani, quindi veramente ve ne auguro un'ottima e appassionata lettura. Ho incontrato Wilson a Bruxelles, mentre era proprio qui di passaggio, mentre presentava Sole e Baleno alla libreria Piola, e prima del solito suggerimento musicale di Dani M. Restate con noi, solo qualche minuto, qualche parola dedicata alla città che vede protagonista anche Lucio e i suoi amici, che è per l'appunto Bologna, la dotta, e anche in questo libro si conferma tale. Poi ritornate con noi perché avrete modo di ascoltare direttamente dalla viva voce di Wilson non solo di Sole e Baleno, ma gli ho strappato almeno qualche frase per la sua ultima fatica letteraria, Smart Life, che è sempre edito da Bompiani e che vi invito ugualmente a leggere. Restate con noi, Radio Alma, Bruxellando, Maridì. Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui, quindi come annunciato all'inizio di trasmissione sono contenta di avere qui con noi per la prima volta a Bruxellando Wilson Saba, autore di Sole e Baleno, che nel 2006 con il suo primo romanzo fu anche finalista Premio Strega. Quindi Wilson, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Voglio salutare tutti e dirvi grazie di avere pazienza un attimo di ascoltare questa intervista, importantissima. Assolutamente sì, perché parli di un romanzo dedicato ai giovani. Bruxellando è molto seguito da una fascia d'età che probabilmente tu hai raccontato qui, quindi oggi un po' più adulta, ma che credo ritroverà parte della sua adolescenza. Quindi veniamo ai contenuti. Come nasce Sole e Baleno? Ma nasce in un momento storico particolare, l'ho scritto nel 2002, dal 2002 al 2004, diciamo, quindi dopo l'11 settembre, che ovviamente compare all'interno della storia, è il finale della storia e dà il senso un po' anche alla storia. Perché, come sapete, avrete capito, per molti della mia generazione, della nostra generazione, è stata un po' la fine dell'adolescenza, cioè una data in cui tutti, insomma, ci ricorderemo cosa stavamo facendo quel giorno, cosa stavamo mangiando, cosa avremmo voluto, i piani che avevamo per il nostro futuro, insomma, che sono quasi andati in frantumi, no? In quel momento, perché tutti abbiamo capito che, insomma, il male era qualcosa di concreto che esisteva e forse non ci avevamo pensato fino a un attimo prima. Io direi che proprio no, non ci avevamo pensato, nemmeno gli studenti di scienze politiche, che pure insomma si dilettavano a parlare all'epoca di quelli che qualcun altro aveva definito scontri di civiltà, credo si immaginassero quello che poi è accaduto per l'appunto in quella data. Ma torniamo al tuo romanzo. Ci sono varie cose che mi hanno colpito e partirei con un elemento molto importante che è l'amicizia tra Lucio, il protagonista, e Paco. Tra mito e realtà? Ma io ho scritto questa storia partendo da un presupposto, cioè, nessuno decide, oggi voglio fare lo scrittore, uno inizia a scrivere, punto. Però io l'ho fatto partendo da un'esperienza precisa che era un tipo di studi che avevo deciso di fare, avevo deciso di studiare letteratura, avevo deciso di occuparmi di estetica perché mi piaceva e quindi avevo un gusto particolare che, insomma, ricercavo nella letteratura di quegli anni e che non trovavo, quindi avevo sentito l'esigenza di scrivere una storia che volevo leggere, no? Che raccontasse un po' quello che stavo vivendo io, quello che stava vivendo la mia generazione. E anche se magari non lo capivo ancora molto bene, ma questo è risaltato fuori adesso che ho rivisto l'edizione dopo 10 anni, no? Mi sono accorto della vita che vivevo, della vita che sognavo, di quello che avrei voluto fare. E questa cosa nella scelta anche della scrittura è presente, nel senso che nasce l'esigenza di scrivere qualcosa che non riuscivo a trovare, e quindi anche nella vita reale. Quindi ho scritto di una famiglia che non avevo e che avevo voluto, il papà medico, il fratellino piccolo, sveglio, un po' canaglia, il cagnolino, l'amico con cui litigare, la ragazza di cui innamorarsi. E ho scritto una storia partendo da questi elementi. E quindi ci sono queste persone che nella realtà non sono mai esistite, perché facevo una vita completamente schiava di un programma che era quello di andare a lezione, di imparare più cose possibili, ma la vita con una vita sociale schizofrenica praticamente, poco con pochissima routine, cioè vedevo a lungo alcuni amici con cui creavo delle relazioni molto forti, simbiotiche, poi venivano interrotte perché subentravano altri amici, nuove esperienze, uh-huh. altre cose, e quindi i frammenti di queste persone che ho incontrato nella vita ci sono nel romanzo, però non sono metabolizzati da personaggi che poi non corrispondono a quelle persone, alle persone reali. Quindi, però compare l'amicizia, appunto, come un valore, come, cioè il significato di amicizia che l'amicizia aveva per me in quegli anni, con degli amici importanti per me, che erano, mi ricordo, Gianni Zanasi, un regista con cui ho iniziato la mia carriera cinematografica, e che era aveva molto di Paco come personaggio, della sua cattiveria, però l'hai incontrato perfidia. Dopo l'ho incontrato dopo l'11 settembre, ma non dopo, non dopo quella lì, ok. No, l'ho incontrato prima, cioè queste le donne, il personaggio per esempio di Teresa, che è il personaggio femminile, è un misto di una che si chiamava Teresa realmente, faceva foto, però non corrisponde né fisicamente né su modo di fare al personaggio che ho descritto. È Daniela, ha molto di Daniela, di una mia amica che si chiama Daniela Pio, che era sparita da un giorno all'altro per fare cinema in America. E viveva, insomma, vedevo quasi tutti i giorni a Bologna, l'avevo visto a lungo, ed era, insomma, ha un po' degli aspetti in cui sicuramente si può riconoscere un personaggio del genere, però insomma non ne abbiamo mai parlato. Io poi queste persone ho continuato a vederle quasi tutte. Inconsapevolmente, ma non abbiamo mai parlato. Nonostante venisse naturale, no, potesse essere naturale chiedere perché hai dato quel nome, il mio nome, a quel personaggio, e probabilmente hanno riconosciuto delle loro caratteristiche, ma è fiction poi alla fine, insomma, però erano persone importanti per me allora, e quindi io ricordo, cioè il senso di amicizia che c'è in questo romanzo è, spero che taglierai una parte di questo discorso perché forse è troppo lungo, però vediamo, dai, intanto parliamone. Sì, però il senso di amicizia che avevo allora era più legato al fatto che fosse l'unico mezzo e metro di crescita, perché l'altro con cui vivi delle esperienze, che ha la tua stessa età e colui in cui riconosci poi te stesso e ti specchi e vedi un po' te stesso, poi impari a leggere te stesso attraverso di lui, ecco. Quindi il dialogo, il battibecco, no? il linguistico tra i due personaggi, che poi sotto forma di dialogo porta sempre ad una illuminazione, no? In minuscolo, no? Non illuminazione in senso buddistico, però alcuni personaggi, no? Che riescono a per questo viene si pensa a questo romanzo come un romanzo di formazione, perché i personaggi, certo, si evolvono, no? Hanno un'evoluzione, quindi queste piccole consapevolezze, epifanie, vengono fuori specialmente nei dialoghi tra due amici, che solo due amici possono fare. Perché riescono a parlarsi, a intercettarsi nella vita, e quindi assolutamente, quindi poi, sì. Però c'è una cosa molto interessante qui, però ti pongo la domanda con gli occhi di oggi, non con quelli di ieri. Sì. Quando parlavi di questo Lucio e dei sogni che Lucio e la sua generazione aveva, che cosa resta oggi? Che ricordo hai, e che cosa secondo te quella generazione che poi hai potuto realizzare proprio a causa di quel... Ma non ne parlo, settembre. Infatti, perché il 12 settembre compare come data, sì, del biglietto aereo che Lucio... la data del biglietto aereo sarebbe il 10, io faccio arrivare sadicamente questo personaggio a New York il giorno del giudizio, insomma, universale, e non dico cosa accade. Poi non è... nemmeno nei capitoli finali, questo è un presagio, sì, esatto. E quindi c'è un finale aperto in cui ciascuno ci mette quello che è stato della sua vita, sì. No, le proprie disgrazie, poi, oppure quello che avrebbe voluto per la propria vita. E non si è avverato. infatti, chissà. E quindi questo è il tuo primo romanzo, e viene notato, e tu approdi direttamente come finalista al premio Strega. Okay. Che cosa hai sentito? Quali sono state le emozioni che ancora ricordi? Ma io ero talmente stupito dalla cosa, perché non ci credevo nemmeno io, nella possibilità di che potesse, insomma, no, essere preso sul serio, perché non avevo mai pensato di essere preso sul serio, però è avvenuto lì, in quel momento, ed è stato bello, perché insomma è un premio letterario. Poi io ero talmente ingenuo che pensavo anche che, non so, avrei potuto avere qualcosa di più, perché l'ingenuità porta a questo, no? Sì, porta a sopravvalutare delle cose. Sopravvalutare delle cose, perché non si conoscono i meccanismi. E poi i meccanismi, no? Certo, si imparano dopo. Si imparano dopo e si capisce quali che sono. Sì. Che sono, cioè, per un romanzo come il mio, che era pubblicato con un editore inesistente, è stato il che massimo. Salutiamo il foglio letterario di Gordiano Lupi, giusto? Che sono stati sì, magnifici, nel senso che hanno creduto in una cosa senza voler niente in cambio, perché all'inizio non sapevamo che saremmo arrivati là. Certo. E quindi questo è il bello delle scommesse, no? Questo è il bello delle scommesse, è bello anche, sì, ci vogliono delle follie, cioè che un imprenditore in Italia si metta a fare queste cose è un po' difficile, perché a quei tempi che correvano. Esatto. Però ricordiamo che questo tuo romanzo ha anche vinto il premio Piccola Editoria, che di qualità, era alla prima edizione, sì. Nel 2006. Cioè i piccoli editori hanno capito che dovevano mettersi d'accordo in qualche modo e fare anche loro qualcosa, no? Perché non c'erano altre, cioè l'unico premio che vende delle copie in Italia è lo Strega, e quindi vincono sempre, corteggiato dagli editori grossi, e quindi vincono sempre gli editori grossi che hanno più possibilità. Editori piccoli non rimane nulla, e quindi devono creare loro un loro mondo, che poi di fatto si comportino poi alla fine come gli editori grandi, cioè al limite non è il peggio. Questo è un altro paio di maniche, magari anche loro hanno le loro regole che certo. non ho imparato a conoscere bene. Senti, da vicino, allora, perché mi è capitato di fare il salto subito. Certo, c'è un percorso che sì, magari il libro è uscito a dicembre, a fine dicembre, quindi insomma a maggio era candidato, e io a giugno avevo già conosciuto il mio nuovo editore, quindi che è stato poi Bonpiani. Certo. E quindi Cos'erano di poi, già che parlavamo dell'esperienza, no? Se tu tornassi indietro e sapessi quello a cui sei andato incontro, lo rifaresti? No, non è una cosa pianificabile. Anche se io volevo fare questo, non è una cosa che puoi pianificare, perché... Certo. Perché... anche perché le condizioni sono cambiate, cioè... se penso alla differenza dell'anticipo che ho ricevuto, no? Col terzo libro e col quarto libro c'è un abisso, cioè anche l'editoria ha avuto una flessione. Adesso non voglio parlare di cifre, di denaro, però se in un lavoro si può anche parlare di questo, però cioè, è anche un settore che soffre tantissimo, quindi io mi sentirei di consigliarlo solo a uno che è molto appassionato e che vuole fare questo. Cioè, mi piacerebbe dire che la letteratura è come la musica classica, cioè un settore di nicchia. Magari fosse come la musica classica, perché l'opera viene seguita in Italia, la musica sinfonica viene seguita, non così il teatro e non così la letteratura, cioè quella che possiamo definire letteratura. Senti, allora ancora un paio di curiosità. Dopo questo tuo romanzo hai pubblicato altre cose, Il punto foscoroso, I giorni migliori, sì, Fili delle stelle, però hai appena scritto anche Smart Life. Sì. Ci vuoi raccontare un po' anche di, visto sì, che è il, diciamo, il tuo romanzo di punta per il momento. È il mio ultimo libro, sì. È un libro che è strano, innanzitutto uno lo vede anche fisicamente, cioè lo apre e trova una struttura narrativa completamente diversa, insolita. Ci sono, i capitoli sono delle sezioni di un'applicazione per iPhone o per telefonini, che è un'applicazione che è in realtà un social network per tossici, dove i tossici si riuniscono. E le sezioni dell'applicazione sono quindi la chat, il forum, il podcast, e ogni capitolo è una di queste aree, di queste non zone della rete dove i personaggi si incontrano e parlano. Ed è un tentativo di raccontare una storia attraverso questi mezzi espressivi. È riuscito perché è un romanzo, insomma. c'è una storia all'interno che uno può seguire e quindi è una possibilità di raccontare diversa, se vogliamo, da quella che uno è abituato, no, a considerare una realtà classica di scrittura. Quando poi non è vero, nel senso che c'è tutta una letteratura da Platone in poi che è fatta di dialoghi e di forme narrative simili, però è la nostra civiltà, è la, no? Sì, è anche la nostra civiltà adesso, cioè è tornata questa forma di comunicazione che si esprime in luoghi diversi dalla pagina scritta, e sono quelli che sono raccontati nel libro, che però è un tentativo anche divertente di raccontare un soggetto difficile, che è quello della tossicodipendenza, da sostanze naturali fatte in casa, democraticamente. Cioè l'applicazione di cui parlo nel libro, che si chiama U-Dose, e che è stata inventata dai protagonisti del libro, è un network, quindi un network sociale dove i ragazzi si scambiano dei consigli su come estrarre alcaloidi in casa. Bene. Quindi la mescalina dai cactus, la psilocibina dai funghi, l'efedrina dalle fedra, tutti gli alcaloidi possibili dalle piante, con semplici estrazioni acido-base da fare in casa con sostanze che si possono reperire in una ferramenta, e che sconsiglio ai lettori di eseguire in casa, perché sono... L'esito magari non lo sveliamo. L'esito del romanzo è chiaramente, cioè è una parabola discendente, perché ecco. Finiscono buona parte dei protagonisti finiscono in coma e finiscono male, però le ricette sono vere, cioè io mi sono documentato tantissimo e le ho pubblicate, perché ci sono anche reperibili, cioè se uno vuole, i ragazzini le conoscono molto bene. Posso immaginarlo. E sono quasi tutte piante legali, cioè molte delle quali non erano in tabella fino ad oggi, o fino a ieri. E tu quanto sei sociale? Niente, per niente. Non ho Facebook mai avuto, no, sono completamente... Mi piace moltissimo come osservatorio la rete, però ne resto fuori. Essere collegato con tutti vuol dire non essere collegato con nessuno. Quindi, il tempo, ahimè, Wilson, in radio è tiranno, però ancora una curiosità. Stai già lavorando a qualcos'altro? Certo, due romanzi, uno a quattro mani con un altro autore che ha più esperienza di me, e uno invece più... dovrebbe essere il romanzo della maturità, spero, un romanzo finalmente sì, denso e importante, e che mi porto dietro da tanti anni, e spero, insomma, sono più o meno a metà, vediamo. Uh-huh. Wilson, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti lasciare ai nostri microfoni, ai microfoni di Bruxellando e agli amici che si ascoltano? Sì, se pensate che quello che state vivendo non sia così importante da essere seguito così da vicino, e volete crearvi una vostra realtà alternativa, la letteratura può essere un bel modo di farlo, nel senso che io vivo benissimo anche non sapendo quello che succede a volte, pensando per il 90% a personaggi che non esistono, a cosa faranno, a cosa penseranno, a cosa diranno, e vivo benissimo così. magari no, non le persone che mi sono attorno ne sono contente di questo perché vorrebbero più attenzione, però si può anche vivere in altre dimensioni. No? Assolutamente, poi di questi tempi forse è meglio. Sì. Sì. Va bene, questo è tutto, ma anche da lettori, insomma, mi rendo conto che il libro ti porta, cioè un bel libro, insomma, ti porta da un'altra parte, insomma, la testa da un'altra parte, a volte fa bene questo, perché siamo troppo concentrati sulle idee sbagliate a volte. Ahimè, quindi ricordiamo Wilson Saba, Sole e Balene, edito da Bompiani, ma vi suggeriamo anche di leggere Smart Life, che per l'appunto è l'ultima fatica letteraria di Wilson. Wilson, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi a Brustellando e chissà, magari ci ritroveremo presto. Molte grazie a voi e non riesco a credere che siate rimasti a ascoltare questa intervista così a lungo. Però non solo ci ascolteranno anche domani sera, ma saremo anche in podcasting. Non so quanto questo possa farti piacere. Meraviglioso, beh, così si può. Potrei riascoltarmi e odiarmi per quello che ho detto. Grazie Wilson, a presto. Grazie a voi. Cari amiche, cari amici, bentornati, bentrovate dopo questo bel momento musicale che ci ricorda la città di Bologna. Io ringrazio tutti, tutte, vi ringrazio per l'ascolto, per questi ascolti che continuano a volare, di questo ovviamente ve ne siamo grati. Non ci dimentichiamo che questo sabato festeggeremo anche San Valentino, quindi è sempre un bel momento da ricordare, ancora meglio se sotto quella candela magari ci sono due teste e non una sola, ma soprattutto che quelle candele illuminino anche il cammino per il resto dell'anno. Buona settimana a tutti e a martedì prossimo, Radio Alma, Brustellando, martedì. E cari amici, cari amiche, eccoci di nuovo qua in studio con Dani M dalla regia, che saluta Georges Laurent e Fiordaliso, che sono arrivati freschi freschi, nel senso che fuori le temperature sono ancora quelle un po' frescoline dell'inverno, ma dai, ma non ci lamentiamo rispetto alla settimana scorsa, c'è un netto miglioramento. Niente, io volevo semplicemente segnalarvi alcune cosucce, perché ormai siamo in periodo di carnevale, per cui a carnevale ogni scherzo vale, ma io non vi faccio nessuno scherzo, perché semplicemente vi voglio segnalare alcuni eventi. Uno di questi, forse anche solo per il fatto che si svolge sotto casa mia, anche se io dovrò lavorare purtroppo quel giorno, è il carnevale multiculturale della Place Flagey, che secondo me è un evento abbastanza interessante anche in questo periodo un po' di rimessa in discussione del multiculturalismo da un certo punto di vista. È bello fare la festa insieme, per cui io vi invito a nome di Brustellando e di Radio Alma al Carnevale del Mondo l'11 di febbraio, quindi tra pochissimo tempo, tra due giorni, no? E alle 14.30 alla Place Flagey. È un carnevale che non è dedicato unicamente e solamente ai bambini, ma un po' a tutta la comunità, e ci sarà anche una bella merenda al pomeriggio. Chi è a lavorare purtroppo se la perderà, ma gli altri spero che si possano, insomma, associare e divertirsi. Niente, io, ragazzi, dalla regia ho già detto troppo, cederei la parola a Georges e a Fiordaliso, che ci racconteranno qualcosina di bello. Oibò! Il bello lo si racconta sempre. Bentornati di nuovo, bentornati in studio a Brustellando parte 2, Brustellando Evo, Brustellando Post, Brustellando Poscia, chissà come volete definirlo. Seconda mezz'ora, quelli che vengono dopo, quelli che vengono prima. Poscia, so. Un po' da... E allora questa ci divertiamo questa sera con qualcosa di un po' particolare. Beh, insomma, visto l'intervista, una l'abbiamo già fatta, almeno parliamo di Libriangolo. Parliamo di qualcosa di libri, libri un po' diversi, libri sempre strani, quelli che Fiordaliso ci propone ogni volta su questi microfoni di Brustellando, sì. E allora partiamo subito, immediatamente, con Librangolo. Georges, fai un'altra sigla, per favore, sempre queste sigle così, un po' così, dai. Questa è bellissima. Fai una sigla poscia. Non moscia. Va bene così. Va bene, questa sera va bene così. Va bene, va bene. Va bene. Dovrò dire a George di che libri parlerò, perché allora magari riesce a cambiare la sua sigla in funzione al tema. Adesso avrebbe dovuto fare musica d'epoca, un po' da corte. Musica di corte? Mm-hmm. Trintanta lette tritta punta di brangolo. Ti piace questa? Librangolo. Allora, stiamo tornando da una scrittrice di cui abbiamo parlato, secondo me, se non 3-4 anni fa, può darsi, magari, cioè, anche comunque, di più, magari anche di più. Che si chiama Philippa Gregory. Allora, Philippa Gregory è diventata famosa con il suo romanzo L'altra donna del re, di cui hanno tratto un film, dove Natalie Portman era Anna Bolena e The Black Swan, sì, che aveva fatto anche Black Swan. Comunque era un film, diciamo, rispetto al libro ovviamente non era decente, però comunque se uno non è un gran lettore magari era comunque interessante e decente, perché quello che Philippa Gregory fa è di scavare un po' nella storia che noi pensiamo di conoscere già bene e di scavare a trovare delle cose degli angoli interessanti. Così anche nella storia di Anna Bolena l'angolo che lei aveva presentato era quello della sorella di Anna Bolena, che era già stata amante del re famoso Enrico VIII prima di sua sorella, e che aveva anche regalato due figlioli illegittimi. Così en passant gli ha regalato due figlioli. Dai, la storia si fa un po' torbida, dai, va bene, mi piace. Beh, Enrico VIII era tutto torbido, quindi non c'è problema, perché stasera ci sprofondiamo ancora più in quest'acqua torbida che è la storia di Enrico VIII, passando da qualche altra moglie. Cioè, per dire, cioè, adesso per farvi un po' di background, Philippa Gregory comunque rappresenta abbastanza bene questo flusso di donne che hanno attraversato i passi del re un po' pazzerello Enrico VIII, perché lei aveva scritto un romanzo su Caterina, quindi la prima moglie, Caterina d'Aragona, che poi è stata spiazzata da Anna Bolena, che dopo poi è stata eccetera eccetera eccetera, e noi siamo adesso da eccetera eccetera, perché le figure che lei mette al centro di questo suo romanzo sono Anna di Cleves, che era tedesca, quindi è per quello che dico Cleves, perché non lo sa. Caterina Howard. E quindi queste sono già due mogli che sono meno vistose, diciamolo così. Cioè, la gente generalmente si occupa sì di Caterina d'Aragona, sì di Anna Bolena, che era molto spettacolare sia nella sua ascensione sia nella sua caduta, e le cose che vengono dopo probabilmente nella memoria della gente si confondono assai, e non mi meraviglio. Però devo dire che Anna di Cleve era comunque un personaggio abbastanza interessante. Cioè, è l'unica moglie da cui, diciamo, Enrico VIII si è sbarazzato, ma non doveva morire per poter, diciamo, separarsi, fra virgolette, dal re. E in questo questa sua, diciamo, cosa era unicissima. Diciamo che era comicissima. Unicissima. Perché, cioè, c'era Jane Seymour, che ha regalato al re il suo unico figlio legittimo, che però è morta dopo il parto, quindi lei era l'unica che è stata veramente amata e di cui stella non è caduta, perché è rimasta, diciamo, come al centro delle attenzioni fino alla fine, però non ha aspettato tanto, non so se è sua fortuna o no. Comunque, e invece Anna di Cleves è l'unica che invece l'ha sopravvissuto, senza dover, diciamo, ed è diventata ex regina praticamente. Una cosa abbastanza rara, infatti è una cosa così. Una cosa così. E allora, ovviamente il re, dopo le sue vicissitudini con Anna Bolena e anche il suo dolore alla perdita di Jane Seymour, vuole una moglie virtuosa, cioè vuole una persona che da un lato gli possa regalare, diciamo, un potere politico, che abbia un peso politico nei grandi giochi sul continente, ma dall'altro lato vuole anche qualcuno che avesse un po' di ritegno. E quindi lui ingaggiava generalmente il giovane Hans Holbein per fare i ritratti delle donzelle che potevano essere considerate. Già, perché questa è una cosa che va rimarcata. Sì. Nel senso che le foto. Diciamo che i reali spesso sposavano qualcuno che non avevano mai visto prima. Mai visto prima. E quindi, per vedere più o meno ma chi sarà codesta che mi sposerò, si facevano portare delle foto. Oggi ci sarebbe Facebook e si potrebbe fare nel giro di qualche secondo. Al tempo Facebook non c'era, ci voleva qualche mese. E ma un anche là la responsabilità, diciamo, del ritrattista era grossissima, perché doveva comunque rappresentare la persona insieme ai suoi difetti, anzi doveva anche un po' intuire il loro carattere e rappresentarlo, perché non è... diciamo il pittore che portava le potenziali candidate al re doveva avere questa imparzialità e quest'occhio critico verso le persone che stava dipingendo. Perché il pittore portava i ritratti? Era il pittore che andava, cioè praticamente il pittore ha fatto il giro delle corti varie dove c'erano le donne potenzialmente sposabili, reginabili. E invece di dipingere, quindi, no. quindi in realtà lui non era torbido, quindi lui ma no, fammi capire, quindi intanto poteva essere prezzolato perché poteva nascondere qualche difetto fisico. Sì, ma dopo avrebbe perso dopo la sua posizione. Cioè, forse che la con testa. Questo re prolifico, con così tante sposalizie, diciamo, con così tanti matrimoni, non era molto... era meglio rimanere in business, diciamolo così. Beh, comunque Anna Cleves nacque il 22 dicembre 1515. In Germania. Mm-hmm. Anzi, a Düsseldorf, nel Ducato di Berg, che è ancora appunto Sacro Romano Impero. Eh sì, però a quei tempi proprio c'era... Cioè, si chiamava Cleves, non so come dirlo. Forse, End of Cleves. Forse Cleves, essendo tedesca, Cleves. Però non ce le vogliano gli storiografi. Vabbè, non lo so, mi dispiace, ma questo non saprei come si dice in italiano. Comunque, questa ragazza è stata scelta e quindi dopo anche lei, senza aver mai visto il re, fa tutto il grande viaggio verso l'Inghilterra per incontrare il suo futuro marito. E qua... già all'inizio della loro storia succede qualcosa che anche i storici registrano, quindi non è che vi sto dicendo una grande sorpresa. Cioè è il re che aveva pensato di fare una sorpresa alla sua amata, convinto delle sue charme irresistibili, e vestito da persona comune raggiunge il corteo che sta portando la futura regina verso Londra. E praticamente comincia a corteggiarla. Però l'Anna Cleves, che è l'unica della compagnia che non sa chi è lui e non lo realizza neanche nel momento, si atteggia in modo molto, tenendolo molto a distanza. Del e tipo, mi sto andando a sposare, quindi vedi di non... Ma neanche, che schifo. Ah, in questo senso, la tira a distanza è tipo, mamma mia. Mamma mia. E allora questo, diciamo che questo momento iniziale non è che augura tante cose positive per il loro futuro matrimonio. Però fatto sta che quello che è particolare di End of Cleves, uno è che comincia un processo per riavvicinare i vari membri della famiglia reale. Quindi è lei che invita, per esempio, alla corte Maria e Elisabetta, che, come sappiamo, vengono da matrimoni precedenti, hanno delle fedi diverse, e il loro padre non li può vedere praticamente, cioè le può vedere e non le può vedere allo stesso tempo. E quindi Anna cerca di costruirsi una famiglia in questa corte un po' snaturata, e cerca anche di essere un personaggio che ha la sua dignità, diciamo, che ha un suo punto centrale, cioè che ha un suo perché. Che ha un suo perché, ed effettivamente magari è proprio questo che la salva, che nel momento in cui il re comincia a voltare la sua attenzione verso Caterina Howard, che è una giovine donna molto attraente, che forse diventerà sua moglie. Ma guarda te, cioè, yes, diventerà sua moglie. È un po' prevedibile la storia. Comunque Anna riesce a navigare in un modo che alla fine le è donato praticamente il loro matrimonio è annullato, e lei riceve un posto dove vivere, anche in comodità, e addirittura di rivisitare la famiglia reale senza che ci siano dei problemi particolari. Quindi sa ritirarsi o di accettare certe cose difficili, tipo che lei non si sarebbe potuto mai risposare. No. Anche se in realtà il matrimonio era rato ma non consumato. Sì, questo è caso che si poteva annullare. Sì, beh, sì, certo. Era questo la ragione per cui si è annullato, e si diceva anche che la regina non sapeva nemmeno che cosa volesse dire spartire il letto con il suo marito. Comunque. Beh, certo, ma se mi dici che lo teneva distante. No, stiamo solo spiegando, sono dei fatti storici. Sì, nel senso che se lei comunque l'aveva già. Per usare una parola molto corretta, schifato prima di conoscerlo, beh, insomma, io credo che sarebbe stato difficile poi riuscire ad arrivare, anche se, insomma, ubi maior minor cessat, le obbligazioni morali e comunque statali avrebbero spinto, ma si vede che non ce l'ha fatta. Comunque, alla fine, possiamo seguire anche cosa succede dopo che lei lascia la corte e lascia il terreno a Caterina Howard, che invece è una giovincella proprio poco culturata, molto frivola, che si interessa semplicemente di vestirsi bene, di avere dei gioielli. È vero! Ed è molto naif in questa sua, lei pensa di poterlo fare, diciamolo così, lei pensa di poterlo fare, e invece non riesce a fare proprio un bel niente. Mentre all'inizio il re dice che Caterina è la rosa senza spine, mm-hmm. Questa rosa senza spine poi alla fine di nuovo diventa diventa un peso, diciamo, che neanche da questo matrimonio escono dei figli, diciamo, perché questo sarebbe rappresenterebbe la stabilità del matrimonio. Lei non viene mai incoronata regina, che, mm-hmm. Che ovviamente rende il tutto molto instabile, e in più è una giovane donna, quindi con un relativo vecchietto decrepito, non è che è contentissima, e quindi alla fine questa situazione, queste pressioni porteranno alla sua fine, e quando la accusano di adulterio e di aver tradito la corona e tutto il resto, lei è senza difese, perché è una scema, cioè praticamente è davvero una senza scemetta, armi, una scemetta senza una armi, una poveretta, una povera innocente, forse un po' frivola, non molto profonda, insomma, una disarmante bella donna. Una disarmante bella donna. È disarmata, esatto, perché per esempio si dice che lei non sapesse nemmeno scrivere, quindi per esempio una delle prove che era presentata al suo processo in teoria non poteva nemmeno esistere, perché lei non poteva scrivere. Mi stai facendo venire in mente una citazione da un film? The Reader. Cioè il lettore, che è stato un bellissimo film. Sì, bellissimo film. The Reader, andate a vederlo, comprate, vedete, aiutate, insomma, fate quello che volete. Ma è veramente bellissimo. E ci ricorda, ora possiamo saperlo, anche una tal sposa di tal re. E quindi poi nel libro c'è anche la figura di Jane Boleyn, Bolena, che fa parte della famiglia malaugurata, che ha seguito come damigella di corte praticamente tutte queste regine, all'eccezione di Jane Seymour. E quindi però è un po' la... diciamo la brutta coscienza della storia, diciamo, è lei che rappresenta questo filo di tante colpe e di tante cose cupe e anche torbide, come direbbe Danielle. Yes, ed è lei che da un punto di vista è strumento di fine anche della povera Caterina Howard, ma dall'altro lato è una che cade nella propria trappola, diciamolo così, è uno strumento nella lotta per il potere che si poteva soltanto ottenere mettendo una regina degna di questo nome accanto al re. E comunque io stavo sempre pensando, cioè sin dal momento in cui io avevo letto L'altra donna del re, che in cui si tratta delle due sorelle Bolena, che erano all'avante rispettivamente moglie di Enrico VIII, stavo sempre pensando che questo povero scemo di Enrico VIII, che aveva già due figli con una, se le sposa l'altra, non ha mai un figlio, finalmente ha un figlio con Jane Seymour, e quel figlio regna pochissimo dopo muore, e quindi praticamente uno dice: ma non avresti fatto meglio semplicemente a riconoscere quei due disgraziati di figli maschi che avevi? Sarebbe stato meglio. Io qui aprirei un dibattito online. Se quasi. Potete twittate, l'hashtag è torbido. A Bruxelles. L'hashtag è torbido. Ma è torbido. C'è del torbido, dopo ne parliamo. Anche se devo dire che comunque la storia dopo dice che ha fatto bene a non adottare questi due bambini, cioè non legalizzarli o di non sposare la sua prima amante, perché comunque Elisabetta era proprio una regina brava. Cavoli, cioè nel senso che ha stabilizzato il paese, l'ha fatto fiorire, ha aperto un periodo di scoperte di potere per l'Inghilterra, che praticamente ha portato, cioè per l'Inghilterra comunque è stato meglio che lui non avesse, forse era stato anche meglio che non avesse accettato questi due figli e non avesse sposato la sua prima amante, comunque. È un po' triste la storia di poveretta, di Caterina. Stavo guardando la storia di Caterina, questa donna che nasce nel 1523 e muore nel 42, cioè a 19 anni. Sì. Ma un attimo, non è finita. Ora capisco perché, scemetta, eccetera. Insomma, era giovane, molto giovane, perché diventa moglie dell'altro bel tomo. Nel 1540, quindi 17 anni verso i 18, ma siamo lì, e lui se la tiene per ben un anno e qualcosa. Sì. La molla il 23 novembre del 41 e questa mischiatta, scusate la schiattezza, ma il 13 febbraio dell'anno successivo, cioè 4 mesi dopo. Sì. È un caso di morte d'amore? No. Di vergogna? Cioè, no, è morta... la esecuzione, caro. Sì, ho capito esecuzione, ma perché? No, perché? Perché la accusavano di adulterio, che forse era vero, forse no. Cioè, Su questo ovviamente i documenti sono scritti dal punto di vista del vincitore, che in quel caso era Enrico VIII. Sembra proprio di sì, 19enne, sì, brutto, rachitico, e poi l'adulterio insomma non esisteva, nel senso che lì c'era tutti con tutto. Sì, ma per una regina l'adulterio esisteva, e come? La regina che garantiva il proseguimento della linea che doveva dare i figli maschi, allora dovevi essere sicuro che i figli maschi fossero del re e non di qualcun altro, o non pensi? Quindi tu sei in realtà una realista. No, non sono una realista, sto soltanto accettando il fatto che in quel periodo, anche se uno poteva prendersi tante licenze in alcuni cerchi, per il re non esistevano dei compromessi. Cioè, per esempio, adulterio da parte di una regina verso il suo re era tradimento della corona, non era semplice adulterio. Quindi era proprio un caso completamente diverso, e la poverina Caterina Howard, che era giovanissima, che interessata di giovincelli bellini, cioè praticamente come ad un adolescente oggi che si innamora magari, quando uno è molto giovane, magari si innamora anche varie volte, cioè dice questo è bellissimo, poi li passa di fronte al naso uno più bellissimo e più affascinante e più tutto, e poi disinnamorarti e rinnamorarti, cioè stai sperimentando con questo sentimento, certo. E lei non ha avuto tanto tempo per sperimentare. No, poveretta, non ha avuto tanto tempo. Ragazzi, sperimentate, questo è il consiglio di Brussellando delle 20:55 per uno che si mette e sintonizza in questo momento a Brussellando. Il siete messaggio giovani, sperimentate. Ma questo è sempre vero, noi dobbiamo assolutamente dirlo. Se siete giovani, sperimentate, se siete vecchi, sperimentate. Se siete in punto di morte, ragazzi, non è mai finita, sperimentate ancora se potete. E viva la democrazia, dove non si deve sopportare un Enrico VIII, e leggete L'eredità della regina di Philippa Gregory. Eredità della regina di Philippa Gregory. Quale regina? Ridilo ancora. Beh, si tratta di due regine, di Anne of Cleves e la Caterina Howard, e comunque la Caterina Howard era un parente di Anna Bolena, e quindi è per quello che è un'eredità. Oh oh, poveretta, non ha fatto la brutta fine tutte e due. La seconda peggio della prima, però non erano proprio messe bene. La seconda peggio della prima. Comunque la serie continuerà, e io sono proprio curiosa di quel che continuerà. Nascerà con chi? Con Catherine Parr? Con l'ultima, no? Non con lo cosa? So, ma magari lei salterà Jane Grey, che era un personaggio interessantissimo, davvero. Ragazzi, vi propongo proponiamo ai nostri ascoltatori, se conoscete una regina dal passato torbido, anche nella storia, tipo, non so, Ramses, quella gente lì, dai, consigliatecelo. Torbid Queens, potremmo dire Torbid Queens, @torbido su Twitter, scrivete @torbido sulle regine, cominceremo a disquisire sulle regine torbide del passato. A me una torbidona che già mi viene in mente è quella dei Serpenticelli. Cleopatra. Oh. Non ti preoccupare, abbiamo anche noi delle grandi dame, grandi dame torbide, cioè per esempio una che si bagnava nella sangue delle vergini. Sì, anche se vorrei capire in che senso, cioè sgozzate o comunque non scendiamo in particolari, oddio, santa pace, che poi facciamo brutti sogni. Sì, esatto, cioè queste donne sgozzate, no, ti prego, oh, che roba. Ma quello succedeva in territori non popolati da esseri umani. Fingiamo, assetati di sangue da Vlad e dintorni. Fingiamo che sia così. Ebbene, fingendo, siamo arrivati a un orario che...